Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Lo sai cosa fa? Lo sai con chi va e con chi si vede? Ah, il pomeriggio, dopo palestra, verso le 6. Lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno, per più di 2 ore? E si toccheranno, si baceranno, ah, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. È che diamine qua ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la gente non lo sa che Federica 15 anni, anche se una donna è, così la gente vede il male anche dove non ce n'è. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 785 e parleremo di Charles Darwin, di animali che sognano, di libri sulla crisi ecologica, di costituzione e di processi in corso. Gabriele Palloni, tosco vegan chef nonché DJ, curerà sia la ricetta della settimana sia la colonna sonora della puntata. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non hanno padrone come me. Attorno a me. Si è celebrato nei giorni scorsi, come ogni anno, il Darwin Day, che intende ricordare la figura del grande naturalista, teorico dell'evoluzionismo. È la giornata dedicata internazionalmente a valutare lo stato di salute degli ecosistemi. Ed è lo spunto per noi per gettare un faro di attenzione sulla condizione degli esseri viventi non umani, nostri compagni di viaggio nell'avventura sul pianeta Terra. Lo facciamo prendendo spunto da un intervento del WWF che ha messo a fuoco, proprio per il Darwin Day, il ruolo degli animali selvatici nella salvaguardia degli ecosistemi. Il rapporto dell'organizzazione ambientalista si intitola non a caso I tecnici della natura. Questo perché il WWF intende sottolineare che la vita selvatica, quindi la biodiversità, è un pilastro per la sopravvivenza di tutte le specie viventi, compresa la nostra. Fra i tanti, un dato salta agli occhi. Dice il WWF che le popolazioni di vertebrati selvatici monitorate nel mondo sono diminuite addirittura del 73% dal 1970. E ancora oggi 1 milione di specie rischia l'estinzione, con effetti a vasto raggio su tutti i cosiddetti servizi ecosistemici essenziali, cioè aria e acqua pulita, fertilità del suolo, sicurezza climatica. Il WWF nel suo rapporto scende anche nei dettagli e illustra il ruolo svolto da alcuni specifici animali. I castori, per esempio, costruendo dighe e tane, trasformano corsi d'acqua in stagni, favorendo così la biodiversità e mitigando gli effetti delle inondazioni. Nonostante le dicerie che attribuiscono loro, come ad altri animali, la responsabilità per le alluvioni e per lo stato disastroso dei corsi fluviali. I coralli, invece, formano le barriere coralline, appunto, ecosistemi marini ricchi di vita e fondamentali per la protezione delle coste e per il benessere delle comunità umane che vivono lungo le coste. E poi ancora le api, le farfalle e molti altri insetti, comprese le vituperate zanzare, sono i corrieri del mondo vegetale che trasportano il polline da un fiore all'altro, permettendo così la riproduzione delle piante. Sappiamo bene che senza l'impollinazione la produzione di frutta, verdura, semi sarebbe drasticamente ridotta e la sicurezza alimentare globale sarebbe a rischio. Analogamente, molte specie di uccelli e mammiferi sono specializzate nel trasporto di semi, contribuendo alla loro dispersione e al regolare il rinnovamento delle foreste. E proprio le foreste svolgono un ruolo molto delicato. La loro manomissione, ampiamente in corso in tutto il pianeta, è un grave pericolo per la permanenza di ecosistemi di qualità. Nelle foreste, nota il WWF, è in corso da tempo una progressiva sostituzione degli alberi di grande taglia con altri più piccoli. E questo diminuisce la capacità di questi ecosistemi di stoccaggio del carbonio, una funzione vitale per la qualità dell'aria. Un ruolo importante, aggiunge ancora l'organizzazione, svolgono gli animali predatori, lupi ad esempio, che regolano il numero di ungulati presenti nei diversi ecosistemi, facendo una funzione di giardinieri naturali, prevenendo il sovrappascoli e consentendo così la tutela e il rinnovamento della vegetazione. Un ruolo analogo gioca la lince, che indirettamente contribuisce a mantenere elevata la biodiversità degli ecosistemi. E ancora c'è il ruolo svolto dalle balene, che trasportano i nutrienti delle profondità oceaniche alla superficie, ma anche dai quartieri di alimentazione delle latitudini settentrionali e meridionali ai tropici, dove si riproducono. In questo modo le balene favoriscono il fitoplancton, e così via. C'è quindi un ruolo svolto dagli animali selvatici che viene gravemente sottovalutato. In realtà favorire la vita selvatica implica tutelare l'integrità degli ecosistemi e migliorare quindi la qualità della vita sul pianeta Terra per tutti gli animali, umani e no. Gianluca Catullo, responsabile specie habitat di WWF Italia, ha sintetizzato il senso del rapporto elaborato in occasione del Darwin Day con queste parole. Conoscendo meglio il ruolo insostituibile degli animali per l'umanità e i benefici vitali che la fauna selvatica apporta alla nostra vita quotidiana, è ancora più grave che questi temi vengano ignorati nelle principali discussioni scientifiche e politiche, con il rischio di perdere di vista e di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di conservazione globale. Il messaggio del Darwin Day è quindi un appello a un'evoluzione consapevole. Proteggere i tecnici della natura, cioè gli animali, significa proteggere anche la specie umana. E quindi c'è un tornaconto, anche in una impostazione rigidamente antropocentrica. È un'ovvietà se vogliamo, ma nel nostro paese un'affermazione del genere è quasi provocatoria, visto che la guerra ai selvatici è uno degli assi portanti delle ideologie politiche oggi prevalenti e si traduce in atti assai concreti contro numerose specie, dai lupi agli orsi, alle nutrie e a altri numerosi animali. Darwin, se potesse sapere, non sarebbe orgoglioso di noi. L'uomo col megafono cercava, sperava, tentava di bucare il cemento, gridava nel vento parole di avvertimento, di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse allungava i silenzi. Sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma invece di nuovo la voce tornava, la voce tornava. Tre anni fa ormai, quando l'articolo 9 della Costituzione fu modificato per inserirvi nuove affermazioni di principio sulla tutela dell'ambiente e degli animali, i giudizi si divaricarono. Ci fu chi apprezzò la novità sia perché la modifica offriva una nuova copertura istituzionale alle istanze ecologiste e animaliste, sia perché la scelta del Parlamento denotava la maturazione di certi temi in seno all'opinione pubblica. Altri espressero dubbi e perplessità, ipotizzando che al rinnovamento dell'articolo 9 non corrispondesse un adeguato aggiornamento delle prassi e delle stesse intenzioni del potere politico. Passati appunto 3 anni, è possibile tracciare un primo bilancio, che sembra, a dire il vero, dare ragione a scettici e pessimisti di allora, in particolare proprio per quanto riguarda gli animali. Legambiente ha compiuto uno studio in materia, dal quale risulta che quasi l'80% degli atti approvati in questi 3 anni non rispetta il principio costituzionale richiamato dall'articolo 9 e solo il 20,5% è in linea con la riforma del 2022. Legambiente per questo studio ha analizzato le banche dati di Camera e Senato per verificare le norme già approvate e le proposte presentate e non ancora entrate nell'ordinamento giuridico. Più in dettaglio, su 617 atti legislativi definitivamente approvati da metà febbraio 22 a 31 gennaio 24, sono 91, ovvero il 14,7%, quelli in cui si parla di animali. E gli animali d'affezione, dice Legambiente, sono al centro di queste proposte, mentre quelli selvatici sono ancora privi di un'efficacia e proporzionata tutela penale, a partire proprio dalle specie protette. Non si nota quindi un reale slancio riformatore in Parlamento, come se l'aggiornamento dell'articolo 9 non avesse affatto scosso i parlamentari. Legambiente ovviamente intende lottare perché la novità costituzionale si traduca in norme concrete e perciò chiede a governo e Parlamento di sbloccare immediatamente l'iter delle leggi migliorative per la tutela degli animali oggi in stallo. Fra queste individua le norme prioritarie da mettere in agenda. Approvare il delitto di bracconaggio, come prevede la direttiva europea del 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, introdurre un'etichetta cage free per gli allevamenti più rispettosi del cosiddetto benessere animale, un concetto che arrestiamo animali in verità piace assai poco, e intervenire affinché le cure veterinarie siano accessibili a tutti. Luigi Lombardi Vallauri, per decenni professore di filosofia del diritto all'Università di Firenze e alla Cattolica di Milano, dalla quale fu poi allontanato per avere sostenuto idee ritenute eretiche, è stato fra i tanti che hanno accolto con favore a suo tempo le modifiche dell'articolo 9 della Costituzione. Lombardi Vallauri, fra tante altre cose, ha curato per l'editore Giuffrè, con Silvana Castignone, il volume dedicato alla questione animale nell'ambito del trattato di biodiritto curato da Stefano Rodotà e Paolo Zatti. Storico collaboratore di Restiamo Animali, il professor Lombardi Vallauri è stato fra i pionieri del diritto animale e dedica ormai da molti anni grande attenzione alla vita animale in tutte le sue manifestazioni. Gli abbiamo chiesto di presentarci un libro, Quando gli animali sognano, il mondo nascosto della coscienza animale, scritto da David Peña Guzman e pubblicato dall'editore Il Saggiatore. Sentiamo. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Cerco di riassumere il libro di David Peña Guzman, Quando gli animali sognano, il mondo nascosto della coscienza animale, edizione Il Saggiatore 2024. Il libro studia e afferma il sognare degli animali dal punto di vista scientifico e dal punto di vista filosofico. La scienza fornisce i giudizi di fatto, la filosofia i giudizi di valore. Cominciamo dai fatti. Si accertano, in mancanza di resoconti linguistici, per tre vie empiriche, elettrofisiologiche, comportamentali, neuroanatomiche. È impossibile addentrarsi nei dettagli. Il libro, accuratissimo, richiama decine di ricerche in materia, ma si può concludere con l'autore che il triplice approccio sperimentale è probante. Sì, gli animali sognano. E non sognano solo, come risulta ormai evidente, i mammiferi e gli uccelli, sognano anche animali non omeotermi, come per esempio la femmina di polpo Heidi, attuale compagna di vita, diciamo cane, del biologo David Scheel, i pesci zebra, studiati da un gruppo internazionale nel 2019, le seppie studiate nel 2012 da un gruppo universitario statunitense. Il sognare degli animali impone a Peña Guzmán di sporgersi sul super problema, per non dire mistero, della coscienza, la dimensione immateriale non osservabile in terza persona, la soggettività. Gli animali hanno, anche nel sogno, coscienza cognitiva e coscienza affettiva emozionale, compreso l'orrore. Gli incubi, spontanei o indotti scientificamente, portano i sognanti all'urlo, al pianto, alla depressione. L'approccio basato sui sogni integra significativamente l'approccio finora quasi esclusivo alla coscienza degli animali nello stato di veglia. Comunque, occorre integrare i sogni nella categoria scientifica e filosofica della immaginazione, intesa come conoscenza di cose che non esercitano azione fisica sui sensi, per esempio il nostro luogo di vacanze mentre siamo al lavoro. Un capitolo del libro è dedicato appunto a una zoologia dell'immaginazione. Dimostra, il punto è cruciale, che il linguaggio articolato di cui noi siamo così fieri non è necessario nemmeno nell'uomo per una ricca vita interiore. C'è, come dice un tedesco, Denken ohne Sprache, pensiero senza linguaggio, ed è difficile, se non impossibile, distinguere concettualmente i sogni dalle fantasie da svegli. Ogni specie animale crea uno specifico mondo immaginario che non può non essere anche onirico. Il mondo del pipistrello è pipistrellico. Veniamo ai valori. Tutto questo, come evidenzia Peña Guzmán nell'ultimo capitolo, è rilevante filosoficamente sul piano dell'etica. Le etiche filosofiche sono molte e lui le cita coscienziosamente, ma le più condivisibili, anche quando differiscono nei fondamenti, convergono nel riconoscere che è la vera coscienza, la vera esperienza soggettiva vissuta a conferire lo status morale, cioè i diritti morali, magari non giuridici, ma morali. E il sogno conferma, ingentilisce, accresce di delicatezza e grandezza l'esperienza vissuta, che si verifica ormai con certezza negli animali in stato di veglia, ma che non esiste, attenzione, non esiste nei sistemi di intelligenza artificiale, per quanto bravi siano, magari più bravi degli uomini, sul piano logico e discorsivo. Questi sistemi possono eticamente essere trattati come oggetti, magari di grande valore, ma oggetti. La conclusione etica, ispirata anche dalla scoperta scientifica recente del sogno animale, è che gli umani non hanno il diritto morale di infliggere sofferenze e umiliazioni atroci, di uccidere a piacimento nel proprio interesse. Anzi, hanno il dovere di tutelare e promuovere la vita degli animali come vita degna, come pieno sviluppo secondo le loro specifiche forme di vita. La ricetta della settimana, a cura di Gabriele Palloni, è dedicata stavolta al Piemonte e Gabriele ci spiega perché. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi viene dal Piemonte, in omaggio al nostro caro professor Lombardi Vallauri. ed è quella di una squisita torta delle langhe a base di nocciole. Gli ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro per la torta di nocciole sono 220 g di nocciole pelate, 150 g di zucchero di canna, 80 g di farina tipo 0, 50 g di farina di ceci, 120 ml di acqua, 100 ml di latte di soia o altra bevanda vegetale, 30 g di olio di semi di girasole, 8 g di cremor tartaro, un pizzico di bicarbonato, poche gocce di aceto di mele, un pizzico di sale e dello zucchero a velo. Iniziate preparando la farina di nocciole. Tostate la frutta secca in forno facendo attenzione a non bruciarla. Lasciate raffreddare le nocciole e tritatele finemente col mixer assieme a metà dello zucchero. Unite la farina e continuate a tritare. A parte stemperate la farina di ceci con l'acqua e l'olio di semi. Unite il latte vegetale, il sale e il rimanente zucchero. Unite la parte liquida a quella solida, aggiungete il cremor tartaro e il bicarbonato e sopra di esso versate qualche goccia di aceto di mele. Mescolate un'ultima volta e versate il composto in una tortiera precedentemente oleata e infarinata. Infornate in modalità statica a 170 gradi per 40 minuti. Lasciate raffreddare e spolverate con zucchero a velo prima di servire. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, e invece batto il 5 come uno scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Dopo Lombardi Vallauri continuiamo a parlare di libri, per citare alcuni passaggi che ci paiono interessanti e significativi, tratti dall'ultimo libro di Mario Tozzi, noto divulgatore scientifico. Il libro è Prove tecniche di estinzione, istruzioni per salvare il salvabile, edito dal Touring Club Italiano, nell'ambito di una sua nuova e assai interessante collana chiamata Arcipelago. È un libro che affronta i temi legati alla crisi climatica in corso e prova a ragionare sulle scelte che si possono ancora compiere per attenuare, quantomeno, gli effetti del collasso degli ecosistemi. Nell'introduzione al libro, Tozzi inquadra il tema della crisi climatica nei suoi termini generali e lo fa mostrando una grande apertura, allargando cioè lo sguardo a tutte le forme viventi e andando quindi oltre il paradigma oggi dominante, che continua a considerare la specie umana perno della vita sul pianeta e principale, se non unico, centro di attenzione. Scrive dunque Tozzi. I sapiens ritengono di essere gli unici viventi sul pianeta e di potercela fare anche da soli, al massimo insieme con le piante e gli animali addomesticati. Un clamoroso errore di prospettiva che, infatti, non è stato mai commesso da nessun'altra specie prima. In realtà, l'uomo non è la misura di tutte le cose, e non possiamo ancora parlare di esseri umani e animali come se si trattasse di due categorie distinte. In un altro passaggio che ci sentiamo di condividere, Tozzi getta uno sguardo sull'attualità politica riguardante gli animali. In tutta Europa, scrive, c'è una lobby oscura che si sta dando da fare per riportare le nostre foreste e i boschi al Medioevo, quando in Francia si allestivano speciali squadre di uomini armati incaricate di sterminare i lupi, le linci e gli orsi. Il primo passo è il declassamento del grado di protezione di quelle specie. Se il lupo passa da gravemente minacciato a semplicemente minacciato, è chiaro che si apre un'autostrada per chi ancora trova divertimento nella caccia, una pratica anacronistica e ormai svuotata di ogni significato. La stessa autostrada che viene spianata ai commercianti di armi e a tutti coloro che con le attività venatorie guadagnano. Non ultimo, un certo movimento turistico che visita i delta europei e le paludi residue non per goderne, ma per massacrare la selvaggina. Mario Tozzi, Prove tecniche di estinzione, istruzioni per salvare il salvabile, un libro edito dal Touring Club che ci sentiamo senz'altro di consigliare. Comunque. una possibilità. Non è una possibilità. Per chiudere, una notizia di cronaca. È stato rinviato a giudizio un uomo di 62 anni di Rivisondoli, in provincia dell'Aquila, che è accusato di maltrattamento di animali. Il processo è stato fissato per il 12 maggio al Tribunale di Sulmona. L'uomo è finito a processo perché avrebbe inseguito con la sua auto e ripreso col telefonino un'orsa, accompagnata da uno dei suoi cuccioli. La vicenda risale al 27 giugno del 2023 e il video, della durata di circa un minuto, che è stato acquisito dagli inquirenti, fu girato nella parte alta del paese e poi condiviso sui social. Il filmato ritrae gli orsi in evidente stato di stress, che fuggono al pedinamento, rifugiandosi disperatamente sopra un muretto. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente si è costituita parte civile nel processo, chiedendo la somma di 70.000 euro come risarcimento. Comunque vada il processo, l'episodio è un segnale del rapporto distorto che ci lega agli animali selvatici. È normale, certo, che la vista di un orso, anzi di un'orsa con un suo cucciolo, desti la nostra curiosità. Ma mettersi poi a inseguire gli animali con l'automobile al fine di girare un video da diffondere sui social è il segno di una profonda impreparazione, di una imperdonabile superficialità. Speriamo che il processo serva almeno a diffondere una maggiore consapevolezza nelle relazioni con il mondo selvatico. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.